l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale che ci accompagna a scoprire un'altra Europa, un programma in collaborazione con Euronet.eu, questo network di radio europee che tentano, che riescono a raccontare l'Europa. Radio 24 lo fa quotidianamente con gli aggiornamenti dell'attualità, della cronaca, della politica. Noi il sabato cerchiamo anche altre sfumature, altri punti di vista. facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali che aggiorniamo minuto per minuto con i link relativi agli argomenti toccati, oppure gli sms al 349-238-6666 o anche l'altra Europa @radio24.it se volete scriverci via mail. Queste sono le coordinate, si parte dall'Islanda. Uno pensa alla musica islandese, subito pensa a Björk, ma non c'è solo Björk, vero Maurizio? Sì, direi proprio di sì. Ce lo vuoi presentare tu, questo cantante che abbiamo ascoltato? Tra l'altro è credo scomparso di recente. Ma veramente ora non sono non l'ho riconosciuto. T'abbiamo preso in castagno. Runar Juliusson. Certo. Do il benvenuto a Maurizio Tani. Maurizio Tani è docente di italiano all'Università di Islanda, Reykjavik. Cioè, Maurizio, cosa ci fai lì su? Come mai sei lì a insegnare italiano? Non ho fatto niente di grave. Comunque, no, mi trovo bene e finché mi trovo bene sto qua. Sono venuto qua 11 anni fa per caso, insomma, per sbaglio, e poi invece sono ancora qua. Mm-hmm. Per caso o per sbaglio? Perché guarda che sembra una differenza fine, ma c'è. No, è una scelta, immagino, ma c'è interesse per la lingua italiana? Con mia grossa sorpresa, appunto, ho trovato qui terreno per permettere a un laureato in lettere come me di sopravvivere, insomma, di vivere, insomma. Insegno italiano, ci sono almeno circa 300 persone che ogni anno studiano a vario livello l'italiano, scuola elementare, media, superiore, università. Mm-hmm. E tu conoscevi già l'islandese? No, io sono venuto qua dietro a quella che poi è diventata mia moglie e poi da 11 anni, insomma, in Toscana si dice anche i muri imparano. Comunque poi ho studiato, c'ho anche una laurea in islandese, però. Ah, complimenti, insomma, che è una lingua tosta, vero? Direi di sì, almeno per me lo è stato. Maurizio, ti abbiamo convocato al di là per conoscere la tua storia, perché ci piace sempre scoprire quello che combinano gli italiani in giro e per l'Europa, perché volevamo avere un punto di vista, volevamo avere appunto un osservatorio privilegiato su quello che sta accadendo in Islanda, questa nazione, la sua, a nord dell'Europa, che viene sempre guardata con interesse, con uno strano disincanto. Si parla dell'Islanda o perché c'è una grossa crisi finanziaria, quello che è successo pochi anni fa, o perché c'è un vulcano in eruzione. Questi sono i due estremi, diciamo, della stessa isola. Ogni tanto arrivano notizie curiose. Tempo fa abbiamo parlato, per esempio, della riscrittura della Costituzione utilizzando anche i contributi dei cittadini tramite i social network, ma in questi giorni si è letto molto di questo tentativo, desiderio, forse provocazione di processare l'ex premier Harde per la crisi economica del 2008. E così è arrivata da noi la notizia, voglio capire se è vera, come è stata presa lì, quali sono i commenti, cosa sta accadendo in questo momento in Islanda? Sì, diciamo, come dicevi tu, di notizie strane, interessanti dall'Islanda ne vengono e ne potrebbero venire molte altre. Ad esempio, nei giorni scorsi il nostro creativo sindaco di Reykjavik è un ex clown, giusto? Un attore. È venuto fuori con una nuova provocazione dicendo che la scuola secondo lui dovrebbe essere opzionale, diciamo, non obbligatoria, non ci dovrebbe essere l'obbligo scolastico. quindi ne potremo trovare tante. Poi magari nella distanza poi vengono anche fraintese, o comunque è più facile, diciamo, grazie alla distanza costruirci magari tutta una serie di altre cose intorno. Effettivamente comunque questa notizia è corretta, insomma, c'è questo in corso, questo tentativo di processare l'allora primo ministro dell'Islanda, e in realtà non si sa poi come andrà a finire, perché diciamo che molti, lui stesso ovviamente, però gli islandesi, molti islandesi dicono perché lui e basta, insomma. Certo, il resto del governo, nel senso che l'idea è proprio quella di, cioè, tutte le colpe vengono addossate a lui, quindi non sì, è il governo lui, scusa, essendo poi lui esponente dell'unico partito che non, di quelli importanti, non al governo attualmente, è un po' sospetta la cosa, perché coloro che erano nel vecchio governo e che appartenevano al partito ancora oggi al governo, per esempio il partito di centro-sinistra, non sono stati processati, quindi puzza un po' la cosa, indipendentemente poi dalle idee personali. Certo, ecco, e i cittadini sono coinvolti in questa diatriba, nel senso, si è spaccata la popolazione sulla scelta di processare o meno l'ex premier, o il tutto viene visto con indifferenza e distacco? Ma io non ho l'impressione, insomma, che venga seguito con particolare attenzione, cioè le questioni su cui ci si divide sono più nel campo dell'economia, nei temi, diciamo, più concreti dell'economia. La gente, appunto, ha il problema, che non è solo islandese, di garantirsi il lavoro, uno stipendio sufficiente, una prospettiva per il paese che sta vivendo questa crisi, e quindi i temi, per esempio negli ultimi giorni si è discusso molto su permettere o meno a un grosso investitore cinese di comprare un grosso pezzo dell'Islanda per costruirci un albergo, e su quello effettivamente la gente si divide, giornali, per strada, senti parlare. Su questo non ho avuto all'inizio sì, c'era, però negli ultimi mesi, da quando, insomma, si trascina un po' questo processo, tentativo di processo, non mi sembra che sia seguito con la stessa attenzione. Ok, nel frattempo, Maurizio, hanno pubblicato sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, un bell'articolo preso dal blog Voci dalla Strada, in cui si parla di una sorta comunque di rivoluzione democratica che c'è stata in Islanda, nel senso che dopo la grossa crisi finanziaria del 2008 i cittadini non sono stati passivi, cioè c'è stato comunque un cambio di governo, c'è questa presenza attiva nella ricostruzione, vediamo quanto di facciato, quanto poi saranno contributi sostanziali della Costituzione, e poi è comunque anche un nuovo orgoglio nazionale, cioè i cittadini si fanno ascoltare. Devo parlare? Certo. Beh, diciamo che sì, è vero, volevo promettere solo che l'Islanda, è bene ricordarlo, è un paese di 300.000 abitanti, difficilmente paragonabile alla gran parte degli altri paesi, quindi bisogna stare sempre attenti, però effettivamente grazie anche sicuramente a queste dimensioni che permettono poi di rendere tutto più facile, cioè se uno vuole organizzare una manifestazione fa un giro di telefonate, un giro di email e in poche ore organizza una manifestazione in centro dove magari partecipa il 10% della popolazione. Quindi premesso questo, poi bisognerebbe premettere altre cose, però sì, diciamo, c'è effettivamente anche... io ho l'impressione che ci sia una rivoluzione in corso, ma più fatta di piccole cose, di piccoli gesti, cioè per me la cosa più interessante è vedere come dopo il 2008 c'è stato un cambio abbastanza radicale, quindi una rivoluzione nei modi di pensare, o comunque c'è il tentativo di rimettere in discussione quelle certezze che c'erano prima anche come modelli di comportamento, e quindi sì, effettivamente si respira un'area di rivoluzione, ma fatta Sì, anche di queste cose che dicevi tu, però più generale e forse anche meno visibile e quindi più incisiva. Certo, come, proprio come rivoluzione. Fatali gesti di abitudini, di piccoli cambiamenti, ma decisivi. Maurizio, prima di salutarci, che cos'è questo programma televisivo Persone di Ghiaccio? Sì, è un programma che sta andando in onda in questi giorni sulla TV di Stato, che è cambiata molto dopo il 2008, e dove si cerca di presentare persone che non hanno fatto successo con i soldi o con quelli che erano i miti prima del 2008, ma con la loro volontà, la loro forza, la disciplina, e magari hanno raggiunto importanti risultati nello sport, nella cultura o semplicemente nella vita familiare. Ok, quindi insomma è significativo anche questo. E tu, Maurizio, sei diventato un po' una persona di ghiaccio, nel senso, sei pronto ad affrontare l'inverno islandese? Sì, in realtà, siccome lo conosco, e allora non è così male. Cioè, il problema è che qui fa sempre freddino, ma non troppo freddo, quindi il problema forse è più con l'estate, che non c'è, o almeno quest'anno non è venuta, più che con l'inverno. Ho capito, ok. Grazie davvero, Maurizio, bocca al lupo per la tua attività. Ciao e buon sabato. Grazie. Ciao, ciao. Europost-it. Un Parlamento smart. Siete curiosi di novità europee? D'ora in poi potrete leggerle anche alla fermata del bus o al parco o per strada. Come? Con il vostro smartphone. Il sito del Parlamento europeo è infatti sbarcato su cellulare ed è ora disponibile in versione mobile, con tanti contenuti ad accesso rapido e tante notizie sulle sue attività e decisioni. Volete subito leggere qualcosa? Prendete il telefonino e andate su m.europarl.europa.eu. Sono gli U2 Pavarotti, Miss Sarajevo, live al Pavarotti and Friends di qualche anno fa, e con questa musica andiamo proprio a Sarajevo, perché abbiamo preso spunto da un bellissimo articolo di Nicole Corritore sull'Osservatorio Balcani e Caucaso. Abbiamo già pubblicato il link nelle nostre pagine in Facebook. Il titolo: La lunga rinascita della biblioteca di Sarajevo. Era la notte tra il 25 e il 26 agosto del 1992, quando iniziò il bombardamento della biblioteca di Sarajevo, un luogo significativo per mille aspetti diversi, un centro culturale, ma soprattutto un centro di incontro, un centro dove la città era viva e rappresentava tutto il proprio fermento culturale, il fermento giovanile, la voglia di crescere, la voglia di farsi sentire, di ostentare quella ricchezza che era interna alla biblioteca, ma che era una ricchezza che era metafora della ricchezza di un intero Stato. Questo articolo racconta quello che è successo in quella notte, racconta che cos'era prima e cos'è diventata dopo la biblioteca, e lo fa attraverso la voce di un architetto che proprio di fronte a questa biblioteca è cresciuta, vissuta e quella notte c'era. Lei ha aperto gli occhi, ha aperto le finestre e ha visto questa biblioteca in fiamme. Diamo il benvenuto a Kanita Fokak. Ciao Kanita. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Fokak, ho detto bene il cognome? Un po' diverso, Pociak, ma voi non avete questo carattere nella lingua italiana. Infatti, perché c'è una piccola V sopra la C. E quindi ci perdiamo sempre, sai, un po', scusami. Ma... Non fa niente. Allora, Canita, tu c'eri questa biblioteca, sì. Non solo quella notte, ma ha accompagnato la tua adolescenza, accompagnato la tua gioventù, accompagnato la tua formazione. Sì, certo. La Biblioteca Nazionale, che era collocata nel vecchio municipio costruito ancora in periodo austro-ungarico, a Sarajevo, ho conosciuto in età di 14-15 anni. Una costruzione tra l'altro brutta, vero? O meglio, più che brutta, che nulla... Diciamo che non è inserita bene nell'ambiente... Non si rendeva conto di tutta questa architettura che la circondava. Forse su un altro posto sarebbe stata bellissima, però l'architetto che fece il progetto si è sbagliato, perché ha studiato l'architettura orientale, sì, secondo la sua opinione. Così è andato a Marocco e Egitto per studiare l'architettura orientale, che è già un errore dal punto di vista climatico e stilistico, certo, perché noi a Sarajevo abbiamo eredità dell'architettura classica ottomana, mm-hmm, e abbiamo un clima continentale, siamo tra le montagne con un inverno molto freddo, con poca sole e così via, e già questo era un errore andare in un paese in Africa per vedere e studiare e copiare anche il stile di un palazzo. Così che l'architetto che fece il progetto, dicono le storie, disperato, vedendo l'esito del suo lavoro, si è suicidato prima che sono stati terminati i lavori. Ah, insomma, quindi così, è significativo. Il suo lavoro ha continuato qualcun altro. Esatto, però diciamo che poi vi siete un po' abituati, nel senso anche alla diversità di questo palazzo, perché, sì, sì, perché è diventato appunto luogo molto frequentato. Certo, come tutte le cose anche brutte, all'improvviso diventano nostre, come la torre di Eiffel è diventata il simbolo di Parigi. Non possiamo più immaginare Parigi senza la Torre di Eiffel, che parlando onestamente è bruttissima costruzione in ferro. Certo. Ma la biblioteca infatti è stata collocata nel vecchio municipio nel 1945, subito dopo della Seconda Guerra Mondiale, quando con un decreto è stato deciso di fondare la Biblioteca Nazionale e poi anche la Biblioteca Universitaria. Grazie alle donazioni dei vari cittadini e anche le donazioni dall'estero, molto presto è diventata una delle più ricche biblioteche in Europa. Mm-hmm. Così che noi tutti siamo andati a studiare nella biblioteca, e quando io mi sono iscritta al liceo ero minorenne e non potevo essere membro della biblioteca, non potevo avere la tessera della biblioteca. Così si era iscritta mia madre e io con la sua tessera andavo a prestarmi i libri. Poi la biblioteca è diventata per noi un simbolo, perché essendo così grande edificio tra le piccole case e moschee dal periodo ottomano, era una cosa che non si poteva mancare, era un punto di riferimento, e noi quando eravamo giovani tutti ci siamo dati appuntamenti con i nostri fidanzati all'epoca, se era bel tempo davanti alla biblioteca, se era brutto tempo dentro dell'aula. Quindi, insomma, un luogo di aggregazione fondamentale per la città. Certo. E Canita, cosa hai visto? Quella notte era un grande bombardamento di Sarajevo e io dovevo nascondermi con due figli, Daniel di 16 anni e Faris di 3 anni, sotto una scala di in cemento armato nella nostra antica casa che stava esattamente di fronte alla biblioteca, ci divideva solo il fiume. Noi ci siamo addormentati perché già eravamo esausti dalle paure, di tutto, così si dorme anche con le granate, è una cosa assurda però è vera. E alla mattina ci siamo svegliati prestissimo da un immenso calore, era un calore troppo forte per quel periodo dell'anno anche. Sì. E io sono uscita fuori da quel nascondiglio e ho visto la biblioteca tutta in fiamme, tutta la casa, tutto il giardino, la via di fronte era letteralmente coperta con il cenere. Mm-hmm. Volavano pezzettini dei libri, era una cosa terribile. Poi non solo la paura, perché paura di una madre, che cosa sarà il nostro destino se quello che sta bombardando la biblioteca sbaglia un po', colpisce la nostra casa, dove nascondere i miei cuccioli? E poi anche una situazione, sensazione di debolezza, di mani legate, che non puoi fare nulla per salvare questo immenso tesoro. Infatti leggevo di, di qualcuno che tentava anche di entrare nella biblioteca, ma i cecchini sparavano a chiunque si tentasse appunto di avvicinarsi. Questa è la fotografia, così. La fotografia di quella notte. Oggi invece, quasi 10 anni dopo, cosa succede? Sta rinascendo questa biblioteca, vero? Grazie alle donazioni, sì, certo, dei cittadini, ma da tutto il mondo c'è un risveglio culturale. Palazzo stanno ricostruendo. Bisogna dire che città di Sarajevo non ha mai dimenticato la propria cultura e le origini culturali, perché la prima biblioteca in Bosnia e Herzegovina, o meglio la prima biblioteca a Sarajevo, è stata fondata ancora nel 1537 secondo l'ordine di un governatore dell'epoca che si chiamava Gazi Husrevbey, e i resti di questa biblioteca ci sono ancora, grazie a Dio e grazie ai cittadini che avevano sempre consapevolezza della importanza del libro. Così a Sarajevo si custodisce anche il famosissimo libro di Haggadah, libro che è uno dei più importanti libri per la cultura ebraica. E sempre con sacrifici dei propri cittadini. Certo, diciamo, la Biblioteca Nazionale attualmente si trova in un edificio della vecchia caserma di Marshal Tito, che è diventata campus della Università di Sarajevo, mentre il palazzo del vecchio municipio si sta ricostruendo. Adesso è tutto coperto con i ponteggi, non si vede, e viene aperto solo nelle occasioni di importanti eventi, tipo le mostre di Kunelis, inaugurazioni di alcuni festival e concerti, perché sempre ancora cantiere, certo, mancano lavori fini nell'interno. Però insomma lavori adesso che... stanno lavorando sulla facciata. Esatto. Dopo il destino del stesso palazzo, le autorità di Sarajevo hanno deciso che sarà di nuovo il municipio, con una parte dedicata anche alla biblioteca nazionale e l'esposizione dei testi più importanti che sono riusciti a salvare. Il fondo della Biblioteca Nazionale attualmente si sta riprendendo di nuovo grazie alle numerose donazioni dal mondo e anche dai stessi cittadini, però le biblioteche sappiamo anche tutti che adesso diventano un po' diverse, sì, insomma, certo, è tutto un altro mondo, sì. Però insomma tornerà a essere anche quell'importante luogo di aggregazione nel cuore di Sarajevo. Canita, grazie davvero per il tuo racconto. Ricordiamo che l'intera intervista appunto è pubblicata sul sito Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Canita, buon sabato e grazie per essere stata Ciao, con buon noi. Buon sabato e buona domenica anche a voi. Arrivederci. Euro Post-it. Oltre l'Oriente e l'Occidente. un festival internazionale di danza contemporanea che si incontra con un portale di ricerca e notizie sul sud-est Europa e sul Caucaso per approfondire la geografia culturale del Mediterraneo. È la rassegna Linguaggi, all'interno del Festival Oriente e Occidente che si tiene al Mart di Rovereto e che chiuderà domani con l'incontro La Turchia che cambia, dove interverrà il corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso da Istanbul, Alberto Tetta. Per saperne di più, balcanicaucaso.org. Quella che state ascoltando in sottofondo è una musica, la musica di uno spot che è stato giudicato in rete come uno degli spot più belli sull'educazione stradale, sull'educazione all'utilizzo delle cinture di sicurezza. C'è un papà che mima la guida, c'è la moglie e la figlia seduta su un divano che guardano questo papà che gioca a fare l'autista, poi sempre mimando c'è una sorta di frenata, una frenata improvvisa. Questo papà si accorge di non avere le cinture e allora la figlia e la moglie accorrono e l'abbracciano di dietro, un abbraccio che è di fatto una cintura di sicurezza. Lo abbiamo caricato sulle nostre pagine in Facebook, è molto significativo e ci piaceva utilizzare questo spot per introdurre il prossimo argomento. Con Euronet, come ogni settimana, abbiamo scelto un tema comune da affrontare con tutte le altre radio nelle diverse lingue. E il tema è proprio quello della sicurezza stradale. Le leggi sulle strade sono abbastanza simili per tutti i paesi membri dell'Unione Europea, ma la sicurezza delle strade non è allo stesso livello in tutti i paesi europei. Nel 2010 più di 1 milione di incidenti stradali sono costati oltre 30.000 vite, 31.000 persone rimaste uccise ogni anno sulle strade, quasi 1.000 bambini sotto i 14 anni, insomma, numeri significativi, e questi numeri tra l'altro tendono ad aumentare in coincidenza, anche se sembra un'ovvietà, con la riapertura delle scuole. E quindi volevamo un attimo fare il punto su cosa significa fare educazione alla sicurezza stradale in Europa, e per farlo abbiamo scoperto un progetto molto bello, si chiama Progetto Soul Save Our Lives, ed è un'iniziativa che coinvolge 8 nazioni del centro Europa, 12 comunità pilota, scusatemi, in 8 paesi della regione dell'Europa centrale, e il capo progetto è proprio l'Italia con l'agenzia ALOT, che è l'agenzia della Lombardia orientale per i trasporti e la logistica, e con noi c'è proprio il direttore Guido Piccoli. Buongiorno Piccoli. Ciao, buongiorno. È difficile fare educazione stradale in Italia, figuriamoci in Europa. Questo è, insomma, è il primo commento a caldo che probabilmente credo che, no, come così, di pancia possa uscire. Cosa significa invece tentare di fare educazione alla sicurezza stradale nel nostro paese e non solo? Dunque, beh, è difficile forse fare educazione in generale. Sì, è vero. Per cui, partendo da questo presupposto, partendo dalle scuole e dalle famiglie, prima di tutto la percezione del rischio. Quindi innanzitutto capire, quando parliamo di sicurezza stradale, come le vetture rappresentino effettivamente un rischio per i pedoni e rappresentino un rischio per i viaggiatori e gli autisti. Questo deve essere il primo elemento da portare a mente. Citando il progetto SOL, noi abbiamo cercato proprio di formare un'azione che parte da una partnership europea, quindi cercare di raccogliere migliori esperienze europee sia in termini di misure, di iniziative per migliorare la sicurezza e la percezione, sia anche in modo molto pragmatico nei casi già applicati dai nostri partner a livello di singole azioni che possono essere nella scuola, nelle istituzioni, con azioni di campagne, comunicazioni, per poterle poi girare e riapplicare nei paesi che magari avessero meno competenza tecnica o magari una crisi, un aumento di incidentalità derivata da aumento della motorizzazione o da latenza di iniziative pubbliche che possono migliorare questa percezione. Certo, ecco Piccoli, ma ci sono nuove tendenze, mi concedo questo termine, nell'educazione stradale, nel senso, è passato un po' il periodo delle pubblicità shock, su cosa si punta adesso? Cioè, qual è la direzione operativa privilegiata, se ne esiste una? Beh, innanzitutto, proprio partendo anche dalla pubblicità che hai citato, la percezione del rischio, come dicevo prima, quindi a prescindere da lo shock dell'immagine che ci colpisce nell'istante, anche quando noi attraversiamo una strada, vediamo un incidente, sul momento restiamo scioccati, pochi chilometri dopo acceleriamo. Così la percezione del rischio è un elemento importante, però Più che altro dobbiamo avere la percezione degli strumenti della sicurezza e del costo che ne deriva nella nostra vita dagli impatti di questo rischio, quindi un modo più soft di presentare la sicurezza stradale, tutti quei piccoli elementi di prevenzione che possiamo avere, cominciamo dalle scuole, piccole azioni in cui i bambini magari vengono educati sia al codice della strada, piccoli segnali, l'attraversamento delle strade, ma anche ci sono dei casi molto interessanti sia europei, in Austria, sia anche in Italia, la stessa polizia municipale della provincia di Mantova, aree in cui sono stati sviluppati dei piccoli percorsi stradali a dimensione di bambino, nei quali questi possono viaggiare con delle macchine a pedali, quindi imparando sì, quelli che sono un po' le velocità, le curve, i passaggi pedonali, i semafori, e altrettanto i bambini avendo coscienza di quelli che sono i rischi derivati da questi, diciamo, micro automobilisti. Quindi diciamo non tanto lo shock dell'incidente da cui noi rifugiamo ci fa paura e quindi cerchiamo di evitare il concetto di sicurezza perché lo abbiniamo al concetto di incidente, di sofferenza, ma abbinarlo invece a un aspetto di qualità della vita, quindi anche a livello di comunità, con una percezione migliore di quelli che possono essere interventi nostri. Quindi non c'è un aspetto negativo, un aspetto positivo rispetto alla sicurezza. Ok, è un progetto che partirà, se non erro, a primavera? È già partito, scusami. Okay. No, nessun problema. È un progetto finanziato dalla Commissione Europea, dal programma di cooperazione internazionale Central Europe, di un budget di circa 3 milioni e mezzo di euro, quindi un budget importante, anche se diviso, come dicevamo, su 8 paesi europei, alla fine ci permette di fare un'azione di ricerca pesante, nel senso che l'idea nostra non è tanto di come dire, comprare dei cartelli e avere degli spazi pubblicitari meramente, ma soprattutto educare le comunità rispetto alla sicurezza stradale. Su due esempi, il 92% degli incidenti avviene su strade urbane e extraurbane, solo l'8% in autostrada. Noi in realtà siamo più colpiti, soprattutto sui giornali, da questi incidenti nelle autostrade. E dall'altro punto di vista, la gran parte degli incidenti deriva dai comportamenti o dalle condizioni delle strade, meno da aspetti tecnologici, diciamo la qualità delle macchine. Evidentemente quindi da questi punti di vista vediamo che l'azione pubblica delle iniziative che le amministrazioni possono mettere in campo e il target, quindi il momento di rischio più importante, sta proprio nelle comunità a livello locale. Quindi la nostra azione sta a focalizzare, educare, far crescere le competenze delle comunità per poter consegnare delle politiche, delle iniziative che siano concrete rispetto alle esigenze dello specifico territorio. Insomma, quindi un bel lavoro. Il sito sollinietaproject.eu per avere tutte le informazioni. Abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine in Facebook insieme anche a quello dell'ALOD, l'Agenzia della Lombardia Orientale per i trasporti e la logistica. E ringrazio il direttore Guido Piccoli. Buon sabato, Piccoli. Grazie a voi. E buon lavoro. Europost-it. La scuola, fucina di inventori. Un robot che gioca a morra, un solvente biologico agli agrumi, gli occhiali che bloccano i pericoli e una città virtuale per i salentini sparsi nel mondo. Sono le migliori invenzioni realizzate dagli studenti italiani e premiate alla finale di Inv Factor, la competizione ideata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, rivolta alle scuole superiori per spingere i ragazzi a trovare soluzioni innovative e creative ai problemi che si affrontano ogni giorno. Volete vedere le foto delle invenzioni vincitrici e conoscere come partecipare alla prossima edizione? Andate sul sito del CNR, cnr.it, nella sezione News. L'altra Europa. Jean-Michel a préparé une très belle surprise à celle qui a finalement accepté sa présence. Il a organisé la livraison d'une chèvre qui avait littéralement fait fondre Nathalie lors de son séjour chez notre agriculteur. Et pour que la surprise soit parfaite, il invente une histoire de vacher. Est-ce qu'il n'y a rien, hein? Allô? Ah bah, attends, faut changer, sinon vacher. Ok, bah, je reviens. Oula, ouais. Ah. En réalité, Jean-Michel rejoint le transporteur pour récupérer la chèvre. J'ai un colis pour vous. La scena è quella di un contadino che cerca di sedurre la propria bella portandole una capra. È una delle tante scene di questo format televisivo che sta spopolando in Francia. L'amour est dans le pré, l'amore è nel prato, un reality che sta incollando un francese su cinque ogni lunedì alla televisione ed è diventato un fenomeno di costume, ma anche aperto il coperchio su una realtà che è quella dei contadini francesi che sono single, cioè c'è una media che è il doppio delle altre professioni, della popolazione normale, cioè i contadini francesi non riescono più a trovare moglie, e quindi è nato questo format televisivo che piace, che ha successo e che è qualcosa di più di una metafora. Ne ha parlato su Repubblica qualche giorno fa Anaïs Ginori, che è qua con noi. Ciao Anaïs. Ciao. Ciao, buono. Tu l'hai visto? Io ho visto una puntata, sì. E sei rimasta affascinata dal contadino medio francese? Ma guarda, ovviamente il reality è molto kitsch, anche un po' con dialoghi surreali, perché lo scopo è mettere davanti donne cittadine che non sanno niente della campagna, con uomini appunto, con fattori, alle prese con le capre, con le stalle, con i campi, e ovviamente vengono spesso, viene da una parte l'ignoranza di cosa è la vita di campagna, dall'altra quella di come funziona la vita di città. Però al di là di questo effetto così un po' anche a volte ridicolo, è una trasmissione interessante perché comunque parla della campagna francese, che in realtà è un po' dimenticato nella vita così pubblica dei media, nonostante la Francia sia il primo paese agricolo d'Europa e abbia oltre metà della sua superficie di tenute agricole. Quindi io ho visto una puntata, non ne avrei viste di più, però è curioso per questo, e sicuramente questo grande successo è sorprendente, insomma, fa capire che probabilmente i francesi sono ancora legati a questo ideale di vita di campagna, alla loro terra. Ed è anche quello che dicono le statistiche. Mm-hmm. Perché sì, sono varie letture, sicuramente un lavoro con mille problemi, che è quello dell'agricoltore, tantissimi di questi giovani agricoltori che vivono ancora in famiglia, però di fatto sono ancora tantissimi i giovani che scelgono come lavoro la terra. E poi c'è questo strano, appunto, incontro-confronto tra la campagna e la città, nel senso che la campagna di fatto affascina anche però i cittadini che vogliono spostarsi verso la campagna, e questi fattori che non trovano moglie, leggevo anche di agenzie matrimoniali specializzate, quindi è veramente uno strano cortocircuito. Sì, sì, beh, diciamo, il problema del celibato tra i contadini è una cosa che esiste ormai da vari decenni, da quando è cominciato l'esodo rurale, no? Perché poi sono state anche le donne le prime a partire dalle campagne. Però la novità è che con internet si è aperta una finestra per questi uomini che vivono spesso in luoghi isolati, quindi non hanno occasione di incontro, e dopo internet poi è arrivata appunto la televisione, e adesso c'è tutto un movimento che è nuovo, di siti, di annunci. Qualche settimana fa è stato fatto anche un grandissimo raduno nazionale chiamato AgriDating, una giornata in cui single si possono incontrare, un po' sul modello di quello che si fa nelle città, nei locali, no? Però in questo caso avveniva nel sud della Francia, in campagna. Quindi tutte queste occasioni di incontro sono nuove per i contadini, sicuramente prima non c'erano. L'altra cosa è che da qualche anno, per la prima volta, ci sono dei movimenti dalle città verso le campagne, cioè persone, cittadini che tornano a vivere in campagna, che non accadeva da decenni, appunto da quando è cominciato l'esodo rurale. Quindi questo vuol dire che per la prima volta da tanto tempo c'è la voglia di tornare a vivere in campagna, rompere con ritmi frenetici, trovare una vita più sostenibile anche economicamente, con costi minori di quelli delle città, un po' una riscoperta, ecco. Mm-hmm. Insomma, anche questo, quindi la TV che diventa metafora di una società. Nei campi troppi cuori solitari, il contadino cerca moglie in TV, questo era l'articolo di cui abbiamo pubblicato i link nelle nostre pagine in Facebook. Ciao Anaïs, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. E noi chiudiamo la puntata, abbiamo veramente una manciata di minuti, però con una storia che ci piaceva raccontare. E con noi c'è Julien Yox, consulente della comunicazione per gli affari europei a Bruxelles. Ciao Julien. Ciao, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, grazie. La storia di Julien, mi piace raccontarla perché insieme